Andrè fuori piove, ma resto qui a guardare alla finestra e tanto penso a te, alla prima volta che ci siamo incontrati. Penso che sono stato veramente fortunato ad incontrare una donna come te, perché tu non ti rendi conto di quando sei bella e di quando sei speciale, perché tu non ti rendi conto delle emozioni che mi fai vivere. Mentre fuori piove, guardo alla finestra e leggo il tuo messaggio, che dice che non vuoi perdermi e di che penso che non sai quando vorrei che fossi qui con me. Perché tu non ti rendi conto di quando sei bella e di quanto penso che non c'è una donna come te e ringrazio il cielo che